La versione di Oscar Giannino. This is the end. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24, di nuovo in diretta la prossima mattina Oscar Giannino alle 16:30 primi e 29 secondi. Vi ringrazio per l'ascolto in diretta o in podcast. Vi ricorda l'indirizzo, la versione di Oscar @radio24.it. Devo dire che oggi ho avuto molte lettere dopo che stamattina, insomma, ho espresso come la penso sul buongiorno di Grambellini sulla stampa. Vi ringrazio, ho provato a rispondere a tutti, non ho ancora finito. E in ogni caso anche oggi mi attengo alla linea di non metterci a astrologare su che cosa farà Trump. Non lo sappiamo, è andato alla Casa Bianca, vedremo. Anche se devo dire anche i giornali americani oggi hanno cominciato e giustamente bisogna immaginare. Comunque vedremo, detto questo. Comunque vi do appuntamento sin da oggi, domani mattina, per chi vuole. E a piacere dalle 10 alle 12 in diretta siamo come tutti i sabati ai Conti della Belva, io, caro Alberto Cannavale Maffè, Mario Seminero e Renato Cifarelli. Effettivamente domani faremo un altro pezzo della trasmissione fino alle 11, dalle 10 alle 11, per capire meglio cosa bisogna immaginare che potrebbe venire all'Europa, ai mercati, dopo l'elezione di Trump. Non sappiamo cosa farà, ma i mercati stanno dicendo che si aspettano delle cose, si aspettano più inflazione, più spesa pubblica, cioè si aspettano un Keynes, in parole povere, che è un'altra cosa che mi fa sorridere, perché dà l'idea di come la vecchia destra e sinistra, come vedete, continua oramai poco come categorie interpretative. Comunque domani dalle 10 alle 12 Conti della Belva. Oggi invece farei invece un utile ripassino, a dirvi la verità. Perché io sono sicuro che se vi dico telefonate all'800240024 e rispondete alla seguente domanda: l'Italia ha bisogno di più spesa sociale? Abbiamo meno spesa sociale degli altri? Ecco, chiamatemi all'800240024 e diteci come la pensate su questo, date una risposta a questo quesito. Volete più spesa sociale? Ce ne abbiamo meno degli altri? Ce ne vuole comunque di più a prescindere dalla comparazione con gli altri? Questo lo dico anche perché troverete sul giornale di domani, anche sul sito del Sole, un dato che rilancia l'idea delle diseguaglianze in fortissima accentuazione in Italia. Questa è la percezione globale, più del 60% degli italiani è convinto che negli ultimi 5 anni stiamo sperimentando una forma brutale di accentuazione della dispersione della ricchezza. Peccato che se andate a vedere il rapporto Banca d'Italia sulla ricchezza delle famiglie italiane, ultima edizione sui conti delle famiglie 2014, quindi dicembre 2015, tra poco dovrebbe uscire quello a fine 2016 relativo al 2015, troverete invece che l'indice di Gini, che è appunto uno degli indici che misura le dispersioni di ricchezza delle famiglie italiane, l'indice di Gini 2015 era esattamente allo stesso livello del 1995. Nel frattempo, nei 20 anni, era salito un po', poi era risceso, ma era lo stesso. Quindi da questo punto di vista capisco la percezione, però il nostro mestiere dovrebbe essere quello di invitarvi poi a vedere i dati. E infatti l'utile ripassino di oggi riguarda i dati. Vi ho chiesto, se volete, se vi va, di intervenire all'800240024 per dire come la pensate della spesa pubblica italiana sociale, visto che siete convinti in massa di vivere in un paese in cui le differenze di reddito e ricchezza si sono aggravate, e quindi mentre ce lo dite, però è uscito su uno dei siti che io ritualmente e sistematicamente vi invito a guardare, perché chi lo ha fondato insieme alla sua squadra sta facendo da mesi e mesi e con crescente successo un servizio pubblico, come lo definisco io, non è la RAI, non si paga con il canone in bolletta, però questo è servizio pubblico. Perché che cosa è questo servizio pubblico? Più volte al giorno, e comunque sul sito poi c'è tutto lo storico, si propone questo sito di approfondire questo o quel set di numeri che riguardano i redditi, i consumi, la spesa pubblica, la finanza, la banca, ma insomma l'economia misurabile quantitativamente, e vi propone delle riflessioni esattamente ripercorrendo i numeri ufficiali, però, ecco, non quelli percepiti, i numeri ufficiali, dichiarando le fonti, quindi tutto rigorosamente fatto con un metodo di rispetto assoluto dei dati, quello che nel dibattito pubblico che ferve ogni sera in televisione nei talk, col piffero che vi viene, perdonatemi, riservato, perché lì ognuno la dice come gli pare, come dicono a Roma. Invece siti come questi dovrebbero essere l'ABC del ritorno all'informazione, al suo dovere, che non è quello di anteporre le proprie convinzioni e della manipolazione dei dati, bensì ecco i dati, poi ognuno è libero di interpretarli, però ecco i dati. Il numero, il sito si chiama, abbiamo fatto diverse trasmissioni, www.truenumbers.it, True Numbers detto all'italiana, lo ha fondato Marco Cobianchi, che è un giornalista appassionato di numeri, che lavora per Panorama. Il sito è quello, e ieri, quando ho visto un approfondimento sulla spesa sociale italiana comparata con quella di altri paesi, mi è piaciuto al punto tale che ho detto: domani ci facciamo una trasmissione. Quindi grazie a Marco Cobianchi di essere con noi oggi pomeriggio, ma soprattutto grazie di continuare a fare con True Numbers ciò che, mia modestissima opinione, parlo per me, è una lezione a tutti noi colleghi che spesso sul rigore dei numeri lasciamo invece molto a desiderare, e quindi serviamo male i nostri ascoltatori, radioascoltatori, teleascoltatori, e anche per chi lavora sui giornali stampati, quelli sempre di meno che comprano il giornale stampato. Chissà come mai li comprano sempre di meno, eh? Forse perché se ne sono resi conto che i metodi che seguiamo spesso deontologicamente sono scorretti. Allora Marco, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a te e agli ascoltatori, grazie. Allora cominciamo dalla prima comparazione, cioè quanto spendiamo noi e quando spendono e quanto spendono gli altri paesi, della comparazione che avete fatto di spesa sociale, lo sottolineo. Allora, la spesa sociale italiana rispetto ai principali paesi europei, 15-17 paesi europei più importanti, non è affatto molto diversa. Allora, noi spendiamo il 41,8% rispetto alla spesa pubblica, il 41,8% va in spesa sociale nel 2014. Quell'anno, ad esempio, il Belgio... Aspetta, io ti interrompo la prima volta solo per dire, tenete conto, sì, che il totale della spesa pubblica è più o meno 50% del PIL. Di questo 50% del PIL, se lo raffrontate al PIL, il 41,8% su quel totale della spesa pubblica, che è metà del PIL, va appunto alla spesa sociale. Esatto. Quindi 41,8 per l'Italia, 41,2 per l'Austria, 43,1 per la Francia, 36 per il Belgio, un po' superiore rispetto al Belgio, ma ad esempio la Germania spende in spesa sociale 42,4, quindi un po' più di noi. La differenza è che noi rispetto al 2001 l'abbiamo aumentata del 6,4 e la Germania l'ha diminuita dello 0,7. Un altro dato che abbiamo approfondito, la fonte è quasi sempre Eurostat in questi casi, quindi fonte ufficiale europea. Allora, l'altro dato che è molto curioso è il comparto più importante della spesa sociale è la spesa per le pensioni. Allora, siamo andati a vedere sempre nel 2014 quanto spendevano i vari stati europei per le pensioni, solo per le pensioni. Allora, l'Italia spende per le pensioni il 27,3% rispetto al totale della spesa pubblica, 27,3%. L'Austria il 25%, la Francia il 23%, il Portogallo il 23%, vi risparmio gli altri, vi dico che l'Italia è quella che spende rispetto al totale della spesa pubblica più di tutti per le pensioni. In fondo alla classifica c'è l'Irlanda che spende il 9,6%. Ora, all'interno della spesa per le pensioni c'è un comparto che si chiama spesa per le pensioni di reversibilità. Non vi sto a spiegare che cosa sono, perché tanto lo sappiamo tutti, no? Allora, i due paesi europei che spendono di più, sempre sul totale della spesa pubblica, in pensioni di reversibilità sono la Spagna e l'Italia, 5,4%. Tutti gli altri spendono meno. La Germania il 4,2, il Belgio 3,4, il Portogallo 3,4, la Slovenia il 3, l'Austria il 2,9, la Francia il 2,8 e via dicendo. In fondo alla classifica ci sono la Gran Bretagna 0,1 e la Danimarca addirittura 0, non ci sono pensioni di reversibilità in Danimarca. Ora, un altro dato che abbiamo messo a confronto è: ma quant'è all'interno della spesa sociale, in questo grande calderone della spesa sociale, la spesa invece per le famiglie, no? Cioè, noi spendiamo un sacco di soldi per le pensioni, ma quanto spendiamo per la famiglia rispetto sempre agli altri paesi europei? Allora, l'Italia spende per la famiglia il 2,8% sempre rispetto alla spesa pubblica, il 2,8%. In testa alla classifica c'è la Danimarca, 8,6%. Se vi ricordate, la Danimarca è il paese che ha zero spesa per le pensioni di reversibilità. Per la famiglia spende l'ira di Dio, 8,6%. In testa dopo la Danimarca la Norvegia 7,4%, l'Irlanda 5,8%, la Finlandia 5,7%, la Svezia 4,9% e via dicendo. Un altro comparto della spesa pubblica è la spesa per il ricollocamento, cioè quanto spendono i paesi europei per ricollocare al lavoro le persone che rimangono appunto senza lavoro. Quelle che si chiamano le politiche attive del lavoro. Insomma. Perfetto, politiche attive, perfetto. Allora, al primo posto c'è l'Irlanda. 6,5% rispetto al totale della spesa pubblica, significa che l'Irlanda, che spende pochissimo per le pensioni, per le pensioni di reversibilità, spende un sacco di soldi per ricollocare le persone che sono rimaste senza lavoro, 6,5. Poi c'è la Danimarca, 5,6, poi c'è la Spagna, sempre 5,6, Finlandia, Belgio, la Germania, il 4,1, ripeto il nostro dato che è 2,4. Peggio di noi fanno la Norvegia e la Gran Bretagna. Poi abbiamo fatto una comparazione tra due paesi che fanno parte dell'Unione Europea, ma che francamente sembrano di due pianeti diversi, neanche di due continenti, due pianeti diversi. Cioè, proviamo a mettere a confronto i dati dell'Italia e dell'Irlanda, ok? Quindi spesa sociale italiana e irlandese a confronto. Cosa viene fuori? Viene fuori che rispetto al totale della spesa sociale, che ripeto è il 41% circa, per quanto riguarda noi, della spesa pubblica, l'Italia spende il 65,2% e la Irlanda spende il 27,7%. Per le pensioni di reversibilità rispetto alla spesa sociale noi spendiamo il 12,8%, mentre l'Irlanda il 6,8%. Cambia tutto invece se noi parliamo di togliamo le pensioni e cominciamo a parlare invece della spesa sociale, diciamo attiva, cioè quella che serve alle persone, no? Quelle che servono alle persone ancora attive, che sono ancora nel mondo del lavoro, che hanno bisogno evidentemente di aiuti. Allora, per la famiglia e i bambini l'Italia spende il 6,6, l'Irlanda il 16,8, per il ricollocamento l'Italia spende il 5,7 e l'Irlanda il 18,8, per le politiche contro l'esclusione sociale l'Italia spende l'1,2 e l'Irlanda il 4. Per le persone che sono rimaste senza casa, quindi problemi abitativi, noi spendiamo lo 0,1, l'Irlanda spende il 7,1. Ecco, questi sono due paesi che fanno parte dell'Unione Europea, ma appunto sembrano di continenti diversi, di pianeti diversi. Questi dati cosa stanno a significare? Stanno a significare che in Europa c'è un paese che va avanti guardandosi indietro, quindi ricopre di soldi pensionati, lo dico molto esplicitamente, anche un'espressione piuttosto brutta, ricopre di soldi pensionati e in questa manovra di bilancio ci sono altri 1,7 miliardi per i pensionati nei prossimi 3 anni e ci sono paesi che invece danno poco ai pensionati, poco alle pensioni di reversibilità, però aiutano le famiglie, i disoccupati e quelli che sono rimasti senza una casa. Allora, io lo so che per radio ci si perde nei numeri, lo so. Poi molti di voi chiedono, questi numeri sono omogenei? Giro a Marco la domanda, sono omogenei, sono fatti su base Eurostat? Sono assolutamente omogenei perché la fonte è la stessa ed è Eurostat, non provengono da fonti diverse, la fonte è sempre solo una e quindi sono ovviamente omogenei. Allora altri chiedono, l'esperto di chi ci sta parlando non ha valutato la popolazione? No, è in percentuale sulla spesa, è in percentuale sulla spesa pubblica, è quello che ci interessa. Certo, sulla popolazione, è chiaramente se tu parli di numeri in assoluto, è chiaro che... No, ma molti credono, per esempio, che la nostra cifra, circa 40 miliardi di euro l'anno, se parliamo di grandezze monetarie, invece cosa è la spesa che vale, pensione di reversibilità, cioè quella dei sopravvissuti, dipende dal fatto che le donne italiane vivono molto di più rispetto a quelle degli altri paesi europei. Vi faccio notare, non tanto di più da giustificare la differenza tra quello che spendiamo noi e chi spende zero, perché ci sono due paesi che spendono 1,0 e 1,0 virgola, per capirci, il totale della spesa pubblica. La Gran Bretagna spende 0,1, non è che perché le donne, cioè, secondo questa logica le donne britanniche dovrebbero morire giovanissime, non mi sembra, insomma, non credo che sia questo il motivo. Il motivo è che noi abbiamo deciso di spendere un sacco di soldi nelle pensioni di reversibilità, altri paesi hanno deciso di spendere un sacco di soldi in altri capitoli di spese. E soprattutto, cari ascoltatori, i meccanismi attraverso i quali attribuiamo la pensione di reversibilità di fondo restano quelle degli anni 70. Ci sono state nei decenni due volte correzioni minimali, ma io ricordo a tutti che nel caso di coniugi che si sono separati, divorziati, risposati, e c'è un coniuge, classicamente diciamo così, il marito che al secondo matrimonio muore, noi riconosciamo la reversibilità alla prima e alla seconda moglie, sia pure in percentuali diverse, e così via, cioè cose che negli altri paesi non sono riconosciute. Questo per fare un esempio, che è un esempio che arriva al di là dei numeri. Quello che mi premeva sottolineare è che questi paragoni fanno chiaramente capire che, con tante sfumature intermedie, però ci sono due modelli diversi. Non è il problema nostro quello della quantità di spesa pubblica, perché come vedete il livello è del tutto paragonabile. La Francia è un pochino sopra di noi come spesa sociale, 43 rotti invece che 41 rotti, la Germania ancora meno sopra di noi, 42 rotti. Il problema è indicare la priorità nella spesa sociale. Ce n'è una che guarda al passato, e lo dico col pieno rispetto per i pensionati e così via, però per esempio in questa legge di bilancio noi stanziamo altri soldi per aiutare chi ha un lavoro per pensionarsi. Nel frattempo invece politiche attive zero per i giovani senza lavoro, per la famiglia pochissimo, per la casa pochissimo. Ecco, la differenza è che gli interventi di spesa sociale volti per esempio all'occupabilità più rapida creano reddito aggiuntivo e crescita aggiuntiva. Quelli, con tutto rispetto alle pensioni delle fasce più elevate della demografiche, danno un contributo comparato di crescita potenziale inferiore. Non sto discriminando, non sto dicendo leviamo i soldi ai pensionati, ci mancherebbe altro. Sto dicendo però che se l'Irlanda, che non a caso è il paese della comparazione finale fatta da Marco Cubianchi, è quella che cresce vorticosamente di più e noi restiamo agli 0, dipende anche, non solo, abbiamo un problema di produttività piatta da 20 anni noi e così via, però dipende anche da come noi prima della crisi e durante la crisi, perché non abbiamo cambiato la scelta, noi continuiamo a privilegiare le pensioni rispetto alle vittime della crisi, alle vittime più gravi, cioè quelle che restano senza reddito. Per esempio noi per la povertà zero, e anche nella prossima legge di bilancio, visto che il rifinanziamento di 600 milioni che era stato dichiarato ed è dichiarato per il fondo alla povertà, l'aumento di risorse è per il 2018 e non per il 2017. Quindi è un mix un po' singolare quello che pratichiamo. Torniamo tra un minuto con le vostre telefonate e la risposta di Marco Cubianchi. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta. La versione di Oscar. Eccoci qui tornati in diretta a parlare di spesa sociale comparata tra il nostro paese e gli altri europei. Do rapidissimamente risposta a alcuni di voi, non a quelli che insultano. Non so, oggi c'è tutta una roba di insulti che arriva a catena sul partito di leccaculo di Confindustria. So con chi ce l'abbiate, con Confindustria posso capire, ma con me il partito di Confindustria non mi riguarda. Detto questo, alcuni di voi dicono no, bisogna fare un confronto con i livelli della spesa pubblica. È un'altra questione. Noi ce l'abbiamo elevata, come noto, a livello della spesa pubblica in termini comparati sul PIL, ma sul totale della spesa pubblica fare una comparazione come quella che vi ha illustrato Marco Cubianco, trovate sul sito www.trunumbers.it, lo ripeto, comunque vi dà un ordine assolutamente omogeneo di scelte prioritarie fatte sul totale della spesa pubblica sociale di ogni paese rispetto al totale della spesa. Quindi la differenza percentuale di cui vi parla Marco vi descrive esattamente le priorità paese per paese, e le nostre sono appunto le pensioni, mentre quelle di cui ci occupiamo di meno sono la famiglia, le politiche attive del lavoro, cioè il futuro, per capirci. Ecco, quindi la base, per così dire, statistica è comunque del tutto coerente rispetto alle cose che indica, delle scelte che la politica fa. Poi i livelli sono diversi, il nostro è elevato della spesa sul PIL, ma la priorità delle scelte vive nella comparazione omogenea, data la definizione omogenea di spesa sociale rispetto al totale della spesa pubblica. Sentiamo alcuni di voi come la pensano intanto, tra coloro che ci hanno telefonato. Cominciamo con Nicola da Campobasso. Nicola. Salve Giannino, buon pomeriggio. Sì. Niente, io innanzitutto mi trovo d'accordo con lei quando mette in evidenza l'incompetenza e l'ignoranza che vige nei talk show e nei media in genere, incapaci di valutare questioni di natura economica, non soltanto queste sulla spesa pubblica, la spesa sociale, ma in generale. In televisione vale la regola 15 secondi a testa e poi ognuno urla sull'altro, non è quasi mai possibile fare un ragionamento serio. Ecco, questa è la mia opinione, però io sono l'ultimo a poterlo dire, per carità di Dio. Però è anche per questo che io non sto più accettando i miei di andare, perché tanto so che qualunque cosa diventa il referendum, no, ci sono un'infinità di cose che col referendum non c'entrano niente, quindi io preferisco starmene a casa. Gli italiani di sicuro non perdono molto. Ma detto questo, sulla il tema di oggi come la pensa? Sul tema di oggi io credo che la spesa sociale in Italia, così come Trunambas sta ben evidenziando, è adeguata anche rispetto agli altri paesi come livello europei. Sì, come livello. Sì. Andrebbe riqualificata e andrebbero eliminati gli sprechi, perché i servizi che ne discendono da questa spesa sociale non sono di qualità, cioè sono servizi scarsi a dir poco da terzo mondo. Guardi la sanità nel centro-sud. No, della sanità ne abbiamo parlato ieri con quell'eroico medico di base che purtroppo ci lascia e va in Francia e che ha scatenato un'ira di Dio di lettere di colleghi a cui ho tentato anche di rispondere, ma sono dietro anche su quello, molti dei quali, la stragrande maggioranza dei quali, d'accordo purtroppo con le denunce che ci ha fatto il medico anconetano di ieri. Quanto poi a chi scrive, che volete lasciare? Le vedove senza pensioni? No, ma in altri ordinamenti per le pensioni di reversibilità si tiene conto del numero di anni di chi le percepisce e della sua occupabilità. Da noi no, negli altri ordinamenti le pensioni di reversibilità sono inferiori perché il tasso di partecipazione della donna al mercato del lavoro è più elevato che da noi, e da noi non è elevato perché non facciamo politiche sociali per la famiglia e la coerenza dei tempi di lavoro con le cure parentali, eccetera eccetera. Quindi figuratevi se io voglio lasciare la gente senza soldi per strada. Ma le scelte che fanno gli altri guardando al futuro sono anche scelte capaci di diminuire il totale delle mogli che non lavorano e che, se muore il marito, restano poi senza reddito. Ecco cosa vuol dire guardare al futuro invece che al passato. Daniele dalla provincia di Firenze, come la pensa? Sì, buonasera. Io volevo dire che, cioè, non è tanto la spesa sociale, non è la cura, insomma, per la nostra malattia, chiamiamola malattia. La crescita delle diciamo si collega strettamente alla spesa pubblica. Ah, sì, certo. La spesa sociale. E cioè, senza una spesa pubblica che rilancia l'economia, è logico, le persone non trovano lavoro e la povertà è quella che si vede poi dai dati, ci sono 6 milioni di poveri, e quindi io non so, lei Giannino, a che indice fa riferimento? L'indice di Gini? L'indice di Gini, l'indice di distribuzione della ricchezza. L'Istat dice che ci sono 6 milioni di poveri. Ma ripeto, l'indice di dispersione dei redditi. Poveri, i redditi no? Possono scendere tantissimo, quello è un indice di dispersione, non è che dà l'idea che se salgono o scendono. È l'indice che misura tra diversi quintili, decili, chi sta più in alto e chi più in basso, come si distribuisce. Quindi è un indice di differenziazione di una distribuzione. Comunque, eravate tantissimi, serviva un'ora. Io dico solo ancora oggi, e anche su questo argomento, grazie a Marco Cobianchi. Vi invito al loro sito www.trunumbers.it. Domani dalle 10 alle 12, appuntamento a Conti della Belva.